Ahí está Marcelo, ¿cómo está, loco? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Marta? Hola, ¿cómo están todos? Bien, bien, aquí estamos recuperándonos, pero bien. Sí, acabo de contar un poco lo que me contaste, que te pasó, de cómo te pasó, ¿no? Allora vi dicevo, Marcello adesso è a casa oggi, a riposo, sta recuperando, come dice appunto, dopo questa così, questa aggressione, diciamolo, da parte di un militare a distanza ravvicinata. Raccontaci tu un po' com'è andata, cuéntanos un poco come fu, immagino che es algo che la calle non ti ha passato solo a ti, no? E che eso passa. Certo, certo. Eso en realidad me gustaría como destacar, o sea, en el fondo fui uno más de los que han vivido esta experiencia de ser heridos por la policía en las calles de Santiago y de todo Chile, en el contexto de esta revuelta que ya lleva poquito más de un mes y que da cuenta al final de la violenta respuesta con que los poderosos y en particular aquí en Chile, con que este gobierno y la casta política han respondido a la demanda popular de no más abusos, etcétera. Sì, appunto, ci racconta che giustamente lui vuole un po' staccare quello che gli è successo a lui, perché è quello che sta succedendo un po' nelle piazze, quello che è l'attitudine di tanti modi di reprimere che ci sono adesso, e soprattutto di come dopo appunto 3-4 settimane di piazza è stato scelto di rispondere a quelle che sono state le richieste delle piazze, appunto, di abbassare la violenza, di veramente fermarsi un attimo. Sí, yo imaginaba que tú ibas a ponerla así, yo lo dije, ¿no? Que te ha pasado a ti, que la gente te conoce, se preocupa mucho, está muy cercana a nosotros, pero lo que está pasando en las plazas, una plaza que como vemos exactamente no ha cambiado de represión, el nivel de represión. Yo sé que el otro día también en la plaza tan fue fuerte la represión que la gente le tocó tirarse al río, pasaron cosas locas, ¿no? Sí, así fue. Mira, primero gustaría contextualizar, okay. ¿Ya? ¿Qué ha habido con este gobierno? Desde el mediados de noviembre, en complicidad con la clase política, léase socialdemocracia, la oposición, y que esta vez el Partido Comunista se salvó, se restó, llegaron a este acuerdo de paz que por allí en una nota que yo escribí, dije, la calle se escribió con plomo y sangre, Y con muerte, porque esa tarde, allá llegaba la noche, después de esta fanfarrona de Piñera y sus partidos políticos y los parlamentarios de llegar a un acuerdo social, la calle, la represión continuó, y ya cuando llegaba la noche en Plaza Italia, un joven de 29 años, Abel Acuña, quien reivindico, murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Y mientras él era asistido por el personal médico, la policía continuó lanzando chorros de agua, gases lacrimógenos, y por lo que pude yo saber, porque asistí al velatorio en el barrio popular, el barrio obrero donde él vivía, hubo 16 minutos que se perdieron y que fueron claves para haber podido salvarle la vida a Abel. Y eso, okay, pues, sí. Eso no paró. Allora, chiaramente dal mese di novembre Piñera, insomma, insieme a tutto il governo, i socialdemocratici, un pochino si è salvato, il Partito Comunista, hanno cercato di mettere questo, così, di fare questo accordo di pace come l'abbiamo visto, che chiaramente non ha funzionato per niente. Insomma, quello che è successo in questi giorni è che nelle manifestazioni di Piazza Italia, appunto mi pare 7 giorni fa, quando è scesa la notte, diciamo, ci sono degli appuntamenti, funziona un po' così, ci sono degli appuntamenti di manifestazioni che sono quelli che creano le masse enormi, ma poi le piazze non sono mai vuote. Ecco, questo è un po' per contestualizzare. L'altra notte a Piazza Italia, durante la notte, appunto, un ragazzo, un giovanissimo, Javier Acuña, è stato colto da una crisi respiratoria, questo appunto grazie all'aria che si respirava, i paramedici lo hanno raggiunto, ma nonostante questo, e ci sono tante testimonianze in giro, nonostante questo la repressione non ha smesso assolutamente né di gasare né di tirare con gli idranti l'acqua, e ci sono stati quei 16 minuti che non hanno reso possibile nessun tipo di attività dei paramedici sul ragazzo, che sono stati fatali, e il ragazzo è morto, e lui che ha partecipato appunto al funerale, alla veglia che è stata nel barrio operaio dove vive questo ragazzo, ha potuto appunto ascoltare le persone che erano lì in quel momento durante il fatto, che appunto parlavano di questi minuti interminabili in cui nessuno riusciva a fare niente perché erano assolutamente sotto un attacco da parte della repressione. Claro, entonces este gobierno ha continuado dando palos de ciego y ofreciendo migajas, modificar las pensiones en ciertos porcentajes que son irrisorias, en bajarse la dieta parlamentaria, reducir el presupuesto de la policía, migajas, queriendo convencer a la gente, pero la gente no le está creyendo, la gente continúa en las calles, y no solo en Santiago de Chile, en otras ciudades, y es allí donde da la respuesta verdadera, digamos, la represión violenta, que por más que el jefe de la policía este martes haya dicho que se suspendían en Santiago el uso de los balines de goma o de plomo, como lo son, porque de goma tienen muy poco, o de caucho, la represión continúa en los barrios populares. Fuerte represión, con mucha violencia. Yo hoy día conversaba con uno, hacía unas averiguaciones, y el catastro hoy, por ejemplo, al 19 de noviembre son poquito más de 300 personas que tienen trauma ocular, pérdida total, parcial de visión, como consecuencia de los disparos de balines de la policía. Allora, diciamo che il governo ha fatto molto poco, ha fatto delle operazioni un po' così di solletico, che a cui nessuno crede, ha modificato, ha alzato pochissimo le pensioni, una cosa irrisoria, ha abbassato un pochino diciamo, i soldi per i parlamentari, ha abbassato anche un pochino il recurso per i fondi per la polizia, e chiaramente sono tutte misure che a cui la gente non crede, nessuno gli crede, gli dicono in faccia. E mentre il capo della polizia qualche giorno fa aveva diciamo, la protesta continua oltre che Santiago in tutte altre città, in particolare in Santiago il capo della polizia aveva detto che avrebbero sospeso l'uso di balines di gomma, e ne hanno veramente pochi, e di metallo, che come vedete sono quelle che stanno facendo la strage di cui vi parlavo poc'anzi. Quindi diciamo che nei quartieri popolari di Santiago la repressione ancora continua fortissima, non è cambiato assolutamente nulla, e diciamo che al giorno di oggi si può parlare di circa 300 traumi oculari, tra perdita totale o parziale della vista dovuta appunto a questi pallini. Sì, mira, altro dato interessante, o sea, importante, ya. A me non mi gustan mucho los datos, pero dan cuenta de sí. dan cuenta de la magnitud que tiene esta violencia, ¿no? Que por ejemplo, en el partido, ya que partimos con lo que a mí me ocurrió el día lunes, son alrededor de 115 comunicadores, 115 comunicadores que han sido, digamos, amenazados, violentados, afectados directamente por parte de la policía. 72 de ellos han sufrido lesiones por disparos de perdigones. Hay dos casos de abuso sexual, en el caso de los comunicadores, de reporteros gráficos, periodistas, independientes en su mayoría, y así sumicidia. Son alrededor de 93 las personas víctimas, que según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que han sido víctimas de violencia sexual, 40 de ellas mujeres, 30 hombres, una mujer embarazada, 16 menores de edad. Esa es la respuesta real del gobierno. El resto es para el circo, ¿no? Para la foto, para hacer el arreglo entre ellos. Y la gente eso ya en la calle, en este país, lo comprendió, lo terminó de entender. Es decir, ustedes están cocinando entre ustedes, y lo que nosotros estamos pidiendo es que esta historia, esta nueva constitución, la escribamos nosotros. Allora, da quando lui... sì. Da quando è successo, diciamo, a lui gli è successa questa storia, a lunedì, a 115 comunicatori, quindi diciamo persone che si occupano di comunicazione indipendente, sono stati minacciati, violentati, hanno subito o appunto sono stati minacciati, attaccati o violentati dalla polizia. 72 allora 72 sono stati feriti appunto da pallettone, casi di abusi sessuali, sono stati casi di abusi sessuali, 93 di violenza sessuale, 40 su donne, 30 su uomini, uno su una donna incinta, e anche sui minori. Queste sono le verità di quello che sta succedendo tutti i giorni nelle strade, durante gli arresti, durante i fermi, durante i sequestri. Questo è quello che sta succedendo nelle piazze. Tutto il resto, quello che si sente dai palazzi, dall'informazione mainstream al circo, è quello che serve per le fotografie, per gli applausi, per i flash e per tutto il resto. La gente è stanca, ha già capito che quello che stanno preparando là dentro è qualcosa che vogliono farsi per loro, e che invece è stanca, e la nuova Costituzione ha deciso che la scriveranno loro e non la scriveranno altri, e quindi non abbandonano le piazze, le strade. Y no solo una nueva Constitución, es ser nosotros, el pueblo de Chile, el que haga este país, no un grupito de personas, los poderosos de siempre, los políticos de siempre, los socialdemócratas, la ultraderecha, no, la gente está diciendo: nosotros queremos hacer este país. Y allí destaco el tremendo valor y el tremendo rol que han cumplido los jóvenes. Hay una cantidad de videos, de testimonios de gente adulta que les da las gracias por lo que hacen, porque uno también los ve en la calle. Yo como fotoreporter los veo en la calle, los muchachos son heridos por perdigones, se curan en un puesto médico y vuelven a la ya afamada primera línea, como se la llama aquí, que son los muchachos que están ahí frente a la policía con escudos, con resorteras, piedras, cócteles molotov, con lo que tienen a mano, se defienden frente a gases lacrimógenos, chorros de agua que queman la piel, provocan vómitos, etcétera, y eso hay que destacarlo también. Entonces, sì, aspetta, abbiamo un momentito. Allora, questa nuova Costituzione, chiaramente il popolo ha deciso che la scriveranno loro, questo è chiaro, che non si fermeranno finché non ci sarà un'altra Costituzione, non sarà di nuovo uno scritto dai governi socialdemocratici, della destra o dell'ultradestra, ma sarà scritto da queste persone, sarà scritto dai giovani che scendono in piazza, che sono quelli che hanno fatto esplodere questa rivolta, e sono i giovani anche della primera linea. Questa primera linea ormai viene celebrata quando arriva in piazza, sono i giovani che stanno davanti, che sono armati di scudi e bastoni per poter difendere anche i manifestanti che sono dietro e che vengono attaccati, e questa è la primera linea. Sono dei giovani che vengono ringraziati da tutto il resto della popolazione, perché si vede il coraggio che hanno avuto, vengono ringraziati dai lavoratori, vengono ringraziati dagli anziani, si vedono proprio questa generazione di giovani coraggiosi che dalla prima linea appunto ricevono i perdigones, si vanno a far medicare in un posto dove ci sono i sanitari e tornano appunto in prima linea. En síntesis es eso, ¿no? Y siguen, continúan riéndose de la gente, del pueblo. El capo de la policía dijo que en un principio, al suspender el tema de los balines, el uso de escopeta en las manifestaciones, defendió el hecho que solo eran de goma. Sin embargo, un estudio de especialistas de la Universidad de Chile, la más importante de este país, les dijo que el 20% era de caucho, el resto era zinc, silicio, plomo, y ya luego aparece otra información que dice que el proveedor, el que les vendía esto, un fascista por lo demás, que fue un deportista en este país en dictadura muy connotado, el tipo, hay un informe del año 2011 que dice que no había que dispararlo a la cabeza ni al cuerpo, sino que solo a las piernas y no a menos de 20 metros de distancia. A me lo dispararono a 15, immaginate. Ecco. Allora, chiaramente quello che si vede poi è che le istituzioni continuano a ridere in faccia al popolo. Il capo della polizia appunto aveva detto che avrebbe sospeso l'uso dei fucili che sparano questi pallini, giustificando che comunque erano di gomma, non erano appunto di plomo o di silicio. Invece poi uno studio di un personaggio, insomma, che ha reso noto questo studio, ha detto che il 20% il capo della polizia ha detto che il 20% erano di gomma, invece il 20% sono quelli che sono stati usati di gomma, e poi sono stati usati appunto quelli di piombo o di silicio. E come vi raccontavo prima, appunto, questo personaggio che produce e vende ai militari questi Balines, che tra l'altro è un uomo di spicco dello sport, fu molto famoso in Cile dalla dittatura ed è un fascistone, aveva scritto comunque già al tempo che questi pallini non dovevano essere sparati se non che alle gambe e da non meno di 20 metri, perché potevano essere pericolosi. Appunto, lui ci racconta che a lui sono stati tirati da molto meno, insomma da quasi 10-15 metri, e come abbiamo visto vengono tranquillamente sparati in testa o al volto. Y eso tiene que ver, o reafirma un poco la verdadera cara de este gobierno, de esta clase política, de los empresarios que por lo demás siguen llorando, que han perdido dinero, siguen intentando esta idea de culpar a los violentistas, ni hablar de la cantidad de gente que está detenida, acusada injustificadamente, de las torturas que se han aplicado en distintas comisarías, de los golpes que han recibido niños, del maltrato a menores de edad que son esposados, digamos contraviniendo todos los acuerdos internacionales en la materia, el maltrato a las mujeres. El día lunes apareció el caso de una muchacha en la ciudad de Rancagua, muy cercana aquí a Santiago, que fue detenida, se resistió casi 20 minutos entre 5 policías, no lograban ingresarle al carro policial, y ya en el cuartel ella denunció que había sido abusada sexualmente. Allora sì, appunto, chiaramente la vera faccia del governo è quella di un governo paralizzato che, come appunto vi avevamo detto, prende queste misure, e di una classe politica che piange insieme agli empresari che si lamentano di aver perso dei soldi e che comunque non riescono ad andare oltre a questo. Intanto dall'altra parte ci stanno appunto questo numero infinito di violenze pesantissime, di repressione pesantissima, che appunto coinvolgono anche i bambini, un sacco di bambini intossicati dai lacrimogeni, comunque giovanissimi e minori abusati e arrestati. E lunedì c'è stato appunto il racconto di è stata reso noto, perché questa ragazza ha portato denuncia, di una giovane che ha resistito all'arresto per circa 20 minuti, non riuscivano in 5 poliziotti a farla salire sul camion, e quando è uscita ha raccontato di aver subito appunto degli abusi sessuali. Questa è un po' la costante di quello che succede durante gli arresti. Io credo che come stai mille se storia di contare in sto días, veo che también la información se hace peligrosa porque sale en que uno son tan pesadas que se necesitaría confirma de ahí, ¿no? Cuando llegan acá, porque es algo muy pesado acá. También yo vi, están girando entrevistas a diferentes embajadores alrededor del mundo, que claro, como embajadores no pueden que sostener la causa del gobierno de Piñera, y todo, la única canción que conocen es que lo violentos, que no es desbaratando la ciudad, que la ciudadanía, que todo es del pueblo, que esto, que el otro, supiendo que del pueblo no es nada, porque el mismo pueblo le está diciendo que no me interesa tener viabilidad en un país que no puedo accederla. No, ese es el problema, no es tener metro, es poder acceder. No es tener hospitales, poder acceder a los hospitales, ¿no? Exacto. Imagínate tú que yo el día lunes me llevaron a la ambulancia a la posta central, y tenía la calificación mediana gravedad. Había otros tantos de graves y había otros menos graves, y éramos alrededor de 50. La puesta central es, por decirte a ti, es por decirle a todos los que nos escuchan aquí, es como el policlínico más importante, de urgencia más importante de Santiago. Okay, es como el icono de la... Il policlinico Umberto Primo qui, sì. Insomma, l'altro giorno quando lui è successo questo, appunto l'hanno portato in questo ospedale centrale, che è una sorta del nostro policlinico piuttosto che del San Camillo, comunque uno degli ospedali più importanti, e lui aveva un codice di media gravità. Quando lui è arrivato c'erano persone più gravi, meno gravi, e lui è arrivato in ospedale completamente collassato, dove solo nelle sue condizioni, quindi in quel giorno, in quel momento, che erano lì per quel tipo di ferite, erano almeno 50 persone, no? Ospedale, da questo punto di vista, completamente collassato, brutalmente collassato. Muchacho, la mayoría jóvenes, con fractura por perdigones en la pierna, en los brazos, lacrimógena en la frente, en la cabeza, y continuó, porque además, cuando, claro, desaparecieron las escopetas de la Plaza Italia, en el caso de Santiago, y de la zona, y del zona centro de Valparaíso, de Concepción, pero en las poblaciones, ya, en la periferia de toda la ciudad de Chile, las escopetas continuaron. Y a los cabros le siguieron metiendo perdigones, ¿no? Quindi l'ospedale sta così perché appunto da Plaza Italia, che è la piazza che viene molto tenuta d'occhio, dove ci sono le grandi manifestazioni, i grandi appuntamenti, i fucili che sparano i pallini sono scomparsi. Quello che succede è che i feriti continuano ad arrivare perché appunto, come dicevamo, nei quartieri della periferia e negli altri, insomma, nelle vicinanze del centro di Santiago ancora vengono usati, e come, ecco. Marcello, io ti ringrazio tantissimo ancora per il tuo racconto, sempre molto importante, e insomma, io spero che riusciamo ad aprire anche un piccolo spazio che sia meno settimanale, casomai, così. E ti ringrazio sempre tanto per questi tuoi racconti, che sono, credo, un tipo di informazione importantissimo. Io so che tanta gente ci segue, ci sente, perché quando appunto abbiamo raccontato della tua vicenda ci sono state molte condivisioni, tutti hanno mandato molta solidarietà, che ti rimando. E grazie mille ancora. No, grazie per tutto. Yo quisiera terminar saludando a la gente que sigue en las calles, a los jóvenes, ¿ya? Saludar a la gente que solidariza, no solo por lo que me ocurrió, sino que porque solidariza con todo nuestro pueblo. Y saludar también a nuestros pueblos hermanos en Haití. Hay una revuelta que a nadie le importa, 45 muertos en las últimas dos semanas. En Ecuador, aunque se ha apagado un poco lo que es la información, lo de Bolivia, que es una tragedia, ya, es la venganza, la desidia de los blancos, ya. Y saludar también Colombia, que hoy día ha convocado a una huelga general, y ya yo leía por la mañana a estos especialistas ya asustados, porque decía, mira Chile, mira esto acá, y eso da cuenta de que América Latina, como alguna vez dijo Che Guevara, es una llama que no se apaga, una ola gigante que no parará. Así que eso saludo también. Grazie veramente, e chiaramente lui vuole salutare e ringraziare tutti coloro che si mobilitano, e poi vuole mandare un saluto al popolo di Haiti, che insomma sembra che non interessi a nessuno, invece sono 45 morti nelle ultime due settimane, al popolo d'Ecuador, che anche se un po' l'informazione si è spenta, ancora sta lottando, alla Bolivia, che sta sotto una tragedia devastante di una vendetta bianca e coloniale assurda, e appunto la Colombia, che abbiamo sentito prima, che oggi chiamava a uno sciopero nazionale. Questo dimostra che, un po' come hanno detto tanti personaggi, come hanno detto il Che, come hanno detto tanti personaggi, Latinoamerica è un'onda che non si fermerà, e questo anche vuole essere un suo modo di salutarci. Grazie mille Marcello, ti abbraccio, guidate e descansa. Grazie, grazie, muchas gracias a tutti. Un abbraccio forte. Vai, ciao.